Un salutone a tutte e tutti, Senza Frontiere, trasmissione numero 18. Siamo qui a Clavier, vicinissimi, a un chilometro circa, al confine con la Francia. Siamo al rifugio autogestito Chazizas. È un rifugio un po' particolare, ci facciamo raccontare direttamente da una compagna, partecipanti alla gestione, all'autogestione di questo rifugio di Chazizas, come è nata l'idea e come sta andando avanti. Sì, allora, il posto esiste da fine marzo all'incirca e in realtà però già da quest'inverno qui in Valsusa, in Alta Valsusa, si era creata una rete di solidarietà, Brise le Frontiere, che insomma aveva iniziato a monitorare un po' la situazione qui al confine. In seguito è stato occupato questo posto, sottochiesa occupato di Clavier, e da qui diciamo la rete Brise le Frontiere non esiste più, ma insomma esiste il gruppo di persone che frequenta questo posto e che fa parte di questo posto. Allora, l'esperienza qui è insomma abbastanza differente da altre esperienze che sono create al confine, nel senso che si tratta di un luogo completamente autogestito, perciò non c'è né un'associazione né nessun servizio al suo interno, ma siamo tutti militanti che lottano contro la frontiera e E niente, quello che insomma si cerca di portare avanti e di cercare di combattere questo dispositivo che ogni giorno seleziona e divide le persone. E qui passano al giorno centinaia e centinaia di persone che raccontano le loro storie, portano le loro testimonianze, ed è molto interessante perché la maggior parte delle persone che passano arrivano da circuiti di seconda accoglienza, dove in realtà le persone vengono completamente gestite, controllate, identificate e non hanno la possibilità di autodeterminarsi. E qui invece insomma possono trovare uno spazio di autodeterminazione e possono scegliere cosa fare, quando farlo. E questo modo di agire, diciamo, è abbastanza scomodo sia per lo Stato, sia la nostra presenza qui è abbastanza scomoda per quello che è anche il paese, l'economia del paese, il turismo, e di conseguenza ora c'è una denuncia che pende su questo posto da circa 2 mesi e quindi siamo sotto sgombero, non abbiamo idea di quando possa avvenire, ma quello che sappiamo è che verrà aperto un nuovo posto a Ulx, che si trova a 15 km dalla frontiera e sostanzialmente sarà un dormitorio con 15 posti letto, gestito da ci saranno 2 operatori che lavoreranno al suo interno e che fanno parte di una cooperativa quindi prettamente istituzionale, sì, è assistenziale, puramente assistenziale, e soprattutto appunto ci saranno questi 2 operatori pagati e tutto quello che è l'esperienza qui secondo me non ha nulla a che vedere con quello che sarà là, perché sarà un semplice dormitorio dove le persone arrivano, si riposano, il giorno dopo se ne vanno, quindi anche la possibilità di costruire qualcosa insieme a loro, semplicemente di per loro di crearsi uno spazio di autodeterminazione non ci sarà. E questa cooperativa sostanzialmente appartiene a questo prete di Bussoleno, che è colui che appunto ci ha informati dello sgombero, e quello che insomma sembra che ci siano un po' di pressioni comunque da parte della prefettura su questo posto, e ora non lo so quando aspetteranno a sgomberare. Ora penso che anche il turismo sia un fattore incisivo. Sì, certo. E niente. Poi quello che è anche interessante sapere è, dal punto di vista della repressione, quello che succede qui. Molte compagne e compagni hanno ricevuto diverse convocazioni in seguito a una marcia che è stata fatta il 22 aprile. Ci sentiamo un pezzo musicale, Fortress Europe, Asian Dub Foundation. Abbiamo visto articoli di giornale, anche notizie di siti di movimento, la Gare de Vue, tra l'altro erano coinvolti anche dei compagni francesi. Sì, sì, sì. Ecco, ti volevo chiedere di rispondere a questo e anche di dirmi un po' come sono i rapporti con compagni ora, no, d'oltre frontiera, diciamo di 30 km da qui, 50, insomma. Ma allora, qui insomma quello che si sta cercando di portare avanti è anche di mantenere solida questa rete di solidarietà che si è creata tra italiani e francesi. Le convocazioni che sono arrivate, la repressione è iniziata fortemente dopo questa marcia del 22 aprile, dove in 300 persone abbiamo attraversato tutti insieme la frontiera, e là sul momento erano stati arrestati tre compagni, Leto e Bastien, che poi sono stati liberati, ma saranno convocati a un processo a novembre. E circa meno di un mese fa sono arrivate altre quattro convocazioni proprio a compagni francesi, sempre rispetto a quella marcia lì, che niente, sono dovuti presentare alla gendarmerie di Briançon, passare un tot di ore in garde à vue, c'è stato di fermo e dopodiché sono stati liberati, ma tutti con una convocazione per il processo di novembre. Quindi sostanzialmente queste convocazioni rientrano nel quadro di un'inchiesta aperta in seguito a quella marcia su aiuto il reato sarebbe favoreggiamento all'immigrazione clandestina in banda organizzata. Quindi insomma è abbastanza cioè il procuratore poi di GAF che sta seguendo l'inchiesta fa anche abbastanza pressioni per portarla avanti, quindi insomma la situazione è un po' questa e per il momento non sono arrivate altre convocazioni, ma non escludiamo che ci siano. E il 31 di luglio una compagna che era già stata convocata ha ricevuto un'altra convocazione per un'altra cosa, per aver accompagnato dei minori alla PAF, cioè la polizia di frontiera, e anche lei ancora garde à vue, ancora stato di fermo e convocazione per novembre. E, insomma, poi diciamo che la polizia francese, lo Stato francese fa molta pressione su questo, cioè, su questo luogo e sulle persone che transitano da questo luogo, però come dire, per il momento non ci sono state altre convocazioni, ecco. Siccome siamo una radio, no? una televisione, ecco, ci descrivi un attimo il rifugio. Cosa c'è dentro questi letto e questo fuori? Così, per dare un'idea per chi non lo vede. Bah, guarda, questo non, di solito non lo diciamo, cioè non lo raccontiamo troppo, però insomma qui cioè, ci sono dei posti letto, uno spazio dove la gente può cucinare, può insomma gestirsi i bisogni primari, ecco, e niente, quello che si cerca di fare è di cercare di tenere questo posto tutti insieme, quindi insomma anche con le persone che passano si cerca di aiutarsi a vicenda nelle robe più pratiche, appunto perché vogliamo oltrepassare questa idea di assistenzialismo e di servizio e permettere appunto alle persone di gestirsi in maniera totalmente libera e niente. Pur rimanendo sui generis ci può dare un minimo di un'idea su queste persone, cioè da dove provengono, quanti ce ne sono, se lo vuol dire. Ma guarda, sostanzialmente noi non chiediamo, nel senso, né nazionalità, cioè a meno che per motivi più pratici, però anche questa roba di cercare di identificare in qualche modo le persone che passano, eccetera, non ci appartiene molto. Però in generale più o meno Africa occidentale, quasi tutte, quindi Mali, Guinea. Queste iniziative Passamontagna, ce ne sono state alcune mesi precedenti e ce ne sarà un'altra prossimamente, ce lo vuoi un po' spiegare? Soprattutto la ci sarà prossimamente a settembre. Ci sono ancora un po' di cose da definire, però dal 19 al 23 settembre sarà su 5 giorni su questa frontiera e insomma saranno 5 giorni di iniziative di lotta, discussioni, riflessioni su quello che è il dispositivo frontiera, su come agisce. E la cosa interessante è che sarà organizzato in maniera totalmente orizzontale, quindi anche con realtà molto diverse, insomma ci siamo trovati, ci organizzeremo insieme a realtà francesi, eccetera, eccetera, quindi nel modo più orizzontale possibile. Non ci sono molte info ancora, però se guarderete sul sito di Passamontagna a breve ci saranno più spiegazioni su cosa si farà, eccetera, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa? Oltre a quello che ti ho chiesto? Ma forse è una cosa interessante da sapere, anche che qua appunto, non essendo un'associazione né dei volontari, non chiediamo niente a nessuno, né di denaro né niente ovviamente, e quello che si è cercato un po' di fare anche in questi mesi è di cercare di contrastare il problema dei passeur, ovvero chi chiede dei soldi per dare delle informazioni. È una battaglia molto difficile perché la frontiera crea anche speculazione, crea molta divisione anche magari all'interno di gruppi di persone che arrivano dalle stesse situazioni, e quindi questo problema non è estinto, però insomma avendo un appoggio qui, una base qua, le persone magari riescono a non finire nelle grinfie dei passori, per così dire. Però è importante saperla questa cosa, perché a Torino per esempio ce ne sono molti, che a Torino, anche a Ulx, e quindi questa è una roba importante da sapere, per cui fare attenzione. L'ultima domanda: i rapporti di vicinato. Allora, appunto questo luogo è abbastanza scomodo, diciamo, perché Claviere è un piccolo paesino di montagna che vive sostanzialmente di turismo, quindi la nostra presenza qui è abbastanza scomoda per quanto riguarda l'immagine del paese e quello che può portare all'economia del paese. quindi diciamo che non è molto facile mantenere dei rapporti con il paese, nel senso noi abbiamo cercato di comunicare dopo un'aggressione che c'è stata da parte di alcuni abitanti, per fortuna non tutti, ma una parte di abitanti che insomma si sono presentati al rifugio per aggredirci sostanzialmente, e dopo questo episodio abbiamo cercato di comunicare un po' di più, di parlare con la gente del paese. Devo ammettere che è difficile, penso che la paura appunto di vedere il turismo minacciato, che qui sostanzialmente è l'unica fonte di entrate, fa sì che ci sia un muro fra noi e il vicinato. Detto questo, comunque c'è stata anche gente solidale che è passata e che ci ha portato il suo contributo, quindi non bisogna fare tutta l'erba un fascio, però comunque è abbastanza complicato. Per avere vostre notizie? Allora, su Facebook, pagina Dice Gesù, rifugio autogestito, lì di solito pubblichiamo tutti i nostri comunicati, insomma iniziative, eccetera, eccetera. Per il campeggio anche ci sarà il sito di passamontagna.info, e lì anche ci saranno poi le notizie riguardanti il campeggio e tutto. Grazie. A voi. Finisce qui questa puntata di Senza Frontiere, che va in onda su Radio Wombat dal lunedì al venerdì alle 13.30. Ricordiamo anche il podcast, che potete scaricare dalla sezione podcast di Radio Wombat andando proprio sulla sottopagina Senza Frontiere. Dalla pagina podcast di Radio Wombat potete scaricare chiaramente tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Distanza frontiera. Eh?